24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Anna Marino, ben ritrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. La Grecia oggi rimborserà 5 miliardi di euro di titoli a breve termine grazie ai fondi arrivati a inizio settimana dall'emissione di titoli obbligazionari a breve con tasso al 4% acquistati sostanzialmente dalle banche greche che hanno compensato il ritardo dei finanziatori dei fondi europei e dell'FMI. La Grecia oggi rimborserà 5 miliardi di euro di bond grazie ai fondi arrivati a inizio settimana dall'emissione di titoli obbligazionari a breve che hanno compensato il ritardo dei finanziatori dei fondi UE e FMI. Atene, a secco di liquidità, aveva di recente paventato il rischio di non riuscire a effettuare i pagamenti. Ma superato lo scoglio, resta il prossimo appuntamento del rilascio della tranche di 31 miliardi di euro. L'Europa deve trovare un accordo però per inserire il debito sui binari della sostenibilità. Lo ha detto il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha interrotto prima il suo viaggio in Asia per essere presente alla cruciale riunione di Bruxelles dell'Eurogruppo del 20 novembre, in cui si discuterà appunto ancora una volta del caso greco. Fondo Monetario e UE fanno parte insieme alla BCE della Troica, che controlla i prestiti alla Grecia. Attualmente però c'è un profondo disaccordo perché il Fondo Monetario non esclude un haircut, cioè un taglio del debito greco, da parte dei governi europei per dare sostenibilità al debito greco, mentre la Germania e Bruxelles preferirebbero altre soluzioni. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea, che ha preso nota della decisione sui generali croati Ante Gotovina e Mladen Markak, ha espresso il suo sostegno al lavoro del TPI. Siamo vicini alle vittime, comprendiamo che ci vorrà tempo per rimarginare le ferite della guerra, ha affermato il portavoce del commissario europeo all'allargamento Stefan Füle, invitando la Croazia a continuare a guardare al futuro con lo spirito di tolleranza e riconciliazione che ha portato il paese sulla soglia dell'appartenenza all'Europa. Eroe nazionale o criminale di guerra? Con la sentenza del Tribunale Penale Internazionale che l'ha assolto, il generale croato Ante Gotovina non cancella il dubbio sugli eventi dell'estate 95, ma incassa la libertà. Belgrado grida allo scandalo, Zagabria dice giustizia è fatta. I morti quelli restano, soprattutto tra chi non ha fatto in tempo a fuggire l'onda dell'operazione Tempesta, che Gotovina pianifica e comanda. Un trionfo militare che riporta sulla Kraina di Knin il vessillo di Zagabria. 250.000 serbi espulsi, a parte quelli che non hanno fatto in tempo. La Kraina era stata occupata 6 anni prima dalle forze serbe. La tempesta è la guerra di liberazione. Gotovina, il guerriero, a 18 anni legionario in Africa, 30 cittadino francese decorato per meriti di servizio. Zagabria deve costruire un esercito, Gotovina è una risorsa. Prima tappa in Slavonia e si mette in luce, capitano, colonnello, maggiore generale, una carriera fulminante da anni di guerra. Sue le operazioni Maslenica e Oluja, la tempesta appunto che chiude i conti sul terreno riportando la Croazia indipendente ai confini attuali. L'operazione che nel 2001 spinge il tribunale a rinviare a giudizio 4 alti militari croati. C'è chi si consegna, Gotovina fugge, Zagabria sta trattando l'ingresso nell'UE, Olanda e Regno Unito fanno blocco, nel 2005 il governo cede, l'eroe diventa un latitante, quasi immediatamente arrestato alle Canarie. In primo grado la condanna a 24 anni di carcere, ieri la appello e la libertà. Per il presidente croato Josipovic la sentenza dice che la Croazia non ha commesso pulizia etnica, che la guerra di Zagabria è stata difensiva e che purtroppo, ha aggiunto, vi sono stati crimini di guerra anche da parte di chi si difendeva. Difficile immaginare altrimenti. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea ha lanciato oggi un appello a Israele per una risposta proporzionata agli attacchi dei gruppi armati palestinesi dalla striscia di Gaza. In un comunicato il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, si è detta profondamente preoccupata dall'escalation di violenze in Israele e nella striscia di Gaza. Ashton ha anche deplorato la perdita di vite umane su entrambi i fronti in conflitto. Gli attacchi con i razzi da parte di Hamas e di altri gruppi a Gaza che hanno provocato la crisi attuale sono totalmente inaccettabili e devono finire, ha detto. Israele ha il diritto di proteggere la sua popolazione da questo genere di attacchi, ha affermato Catherine Ashton. Chiedo a Israele di fare in modo che la sua risposta sia proporzionata, ha aggiunto Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Una volta che succede qualcosa in Medio Oriente di buono o di cattivo, mi si chiede sempre, tante volte mi chiedo, ma l'Europa non esiste, l'Europa non c'è, c'è la Germania, c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, a volte c'è anche l'Italia, più sul piano economico che sul piano politico, ma l'Europa non c'è. In questo momento si sono sfilati gli Stati Uniti, figuratevi quanto possiamo contare noi europei. Dobbiamo fare i nostri compiti a casa, lo sappiamo benissimo, perché dopo il problema economico-finanziario, dopo l'euro, ci si tratta di costruire finalmente una volta per tutte anche le strutture politiche e di difesa comuni dell'Europa. Quando avremo fatto questi compiti a casa potremo presentarci in Europa e nel mondo, non solo in Medio Oriente, ed essere credibili. Le vendite di nuove auto in Europa sono scese a ottobre del 4,8% rispetto a un anno prima, attestandosi a 959.412 unità. Nei primi 10 mesi del 2012, secondo i dati diffusi da ACEA, la flessione è stata del 7,3% con 10.327.276 auto vendute. Il gruppo Fiat ha segnato un calo delle vendite nella stessa area del 5,8%, con la quota di mercato che è scesa al 6,5% rispetto al 6,6% dello stesso mese 2011. Nei primi 10 mesi dell'anno il gruppo torinese ha venduto 688.468 auto, il 15,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La quota dei 10 mesi è passata al 6,4% contro il 7,1% dei primi 10 mesi 2011. Calano ancora le vendite di auto in Europa, ma meno dei mesi precedenti, e scende ancora, sia pure di poco, la quota del gruppo Fiat, penalizzato dall'andamento fortemente negativo del mercato italiano. Ecco i numeri resi noti stamane dall'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei. A ottobre sono state vendute nei 30 paesi dell'Unione più EFTA circa 960.000 vetture, contro poco più di 1 milione nel 2011. Il calo del 4,8%, il minore di quest'anno se si esclude il mese di giugno. Nei primi 10 mesi dell'anno le immatricolazioni sono diminuite del 7,3%, ovvero 800.000 auto vendute in meno rispetto all'anno precedente. Fiat ha ceduto il mese scorso il 5,8% con una quota quasi invariata al 6,5%. Come detto, pesa sui marchi del lingotto la contrazione del 12,4% del mercato italiano. Nel periodo da gennaio a ottobre il gruppo torinese ha venduto il 16% in meno rispetto al 2011, con una quota di mercato in Europa ridottasi dal 7,2% al 6,5%. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il quadro sulla crisi si riflette sulla giornata in borsa. Sui mercati gli operatori restano in attesa di capire se gli Stati Uniti riusciranno a evitare il fiscal cliff, ossia i tagli automatici che scatteranno a fine anno se non si riuscirà a trovare un accordo sulla riduzione del debito pubblico, rischiando così di riportare l'economia in recessione. E nell'attesa la prudenza prevale. I listini europei hanno chiuso la settimana con cali superiori al punto percentuale e Milano ha fatto anche peggio, col FTSE MIB che è ceduto il 2,02% e il FTSE All Share l'1,98%. Le vendite hanno colpito in modo particolare al settore bancario dopo le indiscrezioni secondo cui Banca d'Italia avrebbe avviato un monitoraggio sui crediti in sofferenza degli istituti italiani. BPM ha ceduto il 5,2%, Unicredit il 3,3% e Intesa San Paolo il 3,2%. Male anche Telecom Italia, meno 4,7%, sui timori che la società possa abbandonare il progetto di scorporo della rete che avrebbe consentito di ridurre i 30 miliardi di debiti. In controtendenza Campari, che ha chiuso la seduta in rialzo dell'1%. Si tratta di un rimbalzo dopo che aveva ceduto oltre il 13% negli ultimi 10 giorni. Guido Maurino, da Radio Corpo a Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un mercato interno europeo dell'energia efficiente, interconnesso e trasparente è in grado di offrire ai cittadini e alle imprese forniture di energia al minor costo possibile. La Commissione esorta gli Stati membri ad accelerare i loro sforzi per recepire l'attuale normativa, perché quando si tratta del gas e dell'energia elettrica, ha commentato Günther Oettinger, commissario per l'energia, a cittadini e imprese interessano sicurezza e prezzi sostenibili. Potremo raggiungere questo risultato, commenta, solo con un mercato europeo dell'energia ben funzionante. Fabrizio Barbaso, vice direttore della direzione Energia, intervistato da Gigi Donelli. Regolamentare, non regolamentare, qual è il vantaggio, quale scelta avvantaggia il consumatore? Molti consumatori credono che i prezzi regolamentati siano dei prezzi vantaggiosi per il consumatore, perché sono fissati in modo politico dall'autorità di regolazione o in alcuni paesi addirittura dai governi. Noi riteniamo che con prezzi fissati in modo amministrato dai governi o dai regolatori non sia possibile creare le condizioni di concorrenza. Perché? Perché questi prezzi vanno forse bene per i produttori che sono già presenti sul mercato, ma impediscono nuovi ingressi sul mercato, quindi impediscono alla concorrenza di giocare il suo ruolo, che è quello di spingere i prezzi verso il basso. Inoltre, se capita che questi prezzi fissati in modo autoritario non coprano neppure i bisogni delle imprese, cioè non corrispondono ai costi di mercato, ai costi di produzione, cosa succede? Che le imprese si impoveriscono, non investono e se incominciano ad indebitarsi si rivolgono in seguito ai bilanci pubblici per ottenere delle compensazioni. Quindi alla fine è un costo supplementare che non è pagato dal consumatore ma pagato dal cittadino contribuente. Quindi alla fine riteniamo che il cittadino in quanto tale sia perdente. Ma l'Italia vista da Bruxelles in questo settore dunque dove sta? Ma in questo settore l'Italia non sta male come in altri campi. Direi che l'Italia ha portato avanti una riforma importante del mercato dell'elettricità, sta portando avanti una riforma importante del mercato del gas. Purtroppo i prezzi sono ancora più elevati di quelli in media degli altri paesi europei, quindi bisogna completare queste riforme, insistere nella creazione delle infrastrutture intelligenti che interconnettino il territorio italiano nel suo insieme e l'Italia con gli altri paesi, negoziare dei contratti con i paesi terzi a prezzi più convenienti. Riteniamo che ci sia spazio per un miglioramento e siamo lieti di vedere che uno degli obiettivi di questo piano strategico nazionale per l'energia sia proprio quello di avvicinare i prezzi in Italia alla media europea. È tutto per questa edizione. Un saluto da Anna Marino. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.